La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio24, Oscar Giannino vi dà il benvenuto qui alla versione di Oscar, grazie a chi ci scarica in podcast, trovate le indicazioni sul sito della radio. E la puntata di oggi è dedicata a molti di voi, immagino, che ci ascoltano, che sono pensionati. Una riflessione sui pensionati, perché domani c'è una manifestazione nazionale che i sindacati hanno organizzato, i sindacati naturalmente che raccolgono la rappresentanza dei pensionati, e approfittiamo di questa occasione per chiedervi anche qualunque cosa voi vogliate dirci, di chiamare l'800 24 00 24. Naturalmente la manifestazione di domani ha al centro innanzitutto gli interventi che la manovra economica della legge di stabilità riserva al capitolo dei pensionati, adesso li ricapitoleremo. Ma in generale si tratta ovviamente di fare una riflessione sulla perdita di potere d'acquisto che da molti anni accumulata colpisce duramente milioni di italiani che hanno poi un trattamento medio e mediano molto basso e che li ha visti perdere in media più di quanto non abbiamo già perso in media, la media in questo caso di Trilus, di reddito pro capite, cioè più dell'11% dal 2007. E anche questa legge finanziaria mette mano a un meccanismo delicato, cioè quello dell'indicizzazione delle pensioni, su cui sapete si è già intervenuto negli anni alle nostre spalle dal governo Monti in avanti, e con la legge di stabilità che adesso dopo l'approvazione a un ramo del Parlamento va all'esame dell'altro, il governo Letta ha deciso di limitare l'indicizzazione e quindi l'indicizzazione resta piena da questo punto di vista solo per coloro che hanno un trattamento previdenziale che vale fino a 3 volte l'importo minimo. Il importo minimo è poco più di 480 euro, quindi fino a 3 volte significa 1443 euro lordi, badate bene, non netti al mese. Fino a quella soglia c'è l'indicizzazione piena. Poi per le pensioni superiori a 3 volte, cioè a 1443 euro lordi al mese, si inizia a perdere un 10% nel multiplo fino a 4 del trattamento minimo, dopodiché sopra il multiplo 4, tra 4 e 5 volte il trattamento minimo si perde il 25% fino a 5 volte il minimo. Quindi questa è una misura di freno dell'indicizzazione, e a fronte di questo ci sono poi i contributi sulle cosiddette pensioni d'oro, con le quali invece il governo finanzia un micro devo dire intervento sulla povertà di 40 milioni. Non stiamo parlando, come più volte colpevolmente gli strumenti di informazione hanno detto in questi giorni, di una specie di mini reddito né di cittadinanza né di sostegno, non ha niente a che vedere con questo, è un rafforzamento, ma ripeto, di soli 40 milioni di dotazione per la social card che ci trasciniamo dietro per i redditi più bassi dai tempi del ministro Tremonti. Ecco, presentiamo l'ospite di oggi, che è Carla Cantone, che è il segretario generale della Federazione della CGIL dei pensionati. Buongiorno e grazie a Carla Cantone. Grazie a voi. Allora, ci spiega, domani questa è una manifestazione unitaria, quali sono i punti al centro e che pensate dell'intervento della legge di stabilità? Beh, intanto noi speravamo che la legge di stabilità ripristinasse il metodo di calcolo che c'era prima che arrivasse il governo Monti alla Fornero, che hanno deciso di bloccare la rivalutazione fino a 3 volte il minimo. E quindi avevamo chiesto al governo Letta di ritornare a questo metodo di calcolo. Invece la proposta contenuta nella legge di stabilità sta così come lei, Oscar Giannino, ci ha spiegato un attimo fa, e quindi fino a 3 volte il minimo il 100%, fino a 4 volte il 90%, fino a 5 volte il 75%, il 50% fino a 6 volte il minimo. Ora, i pensionati nel biennio 2012-2013, non i pensionati, il sistema delle pensioni ha dovuto pagare, ha dato allo Stato 12 miliardi, perché questo è stato il prezzo di quei tagli, che ha voluto dire una riduzione media delle pensioni da 40 a 70 euro al mese, a seconda della fascia in cui un pensionato si trovava. Ora, a me pare che dopo una perdita del potere d'acquisto delle pensioni pari al 30% negli ultimi 15 anni, non è accettabile che ancora una volta si vadano a colpire le pensioni. Però attenzione, bisogna fare un ragionamento, perché sembra quasi che questo problema della indicizzazione interessi esclusivamente i pensionati. In verità non è così, perché se si colpisce il sistema e si rivede il sistema di calcolo, e quindi si rivede strutturalmente il sistema della indicizzazione, nel giro di 5 o 6 anni le pensioni in essere, le pensioni che arriveranno e soprattutto le pensioni dei giovani fra 10-15 anni subiranno una riduzione pari al 30-40%, che stava nella idea che accompagnava la riforma Fornero, e cioè quella di rivedere il sistema di calcolo delle pensioni in essere per la rivalutazione, per abbassarla e portarlo nel giro di 10 anni a un abbattimento del 30-40%. Il punto è che si intende smantellare il sistema. Quindi noi domani saremo al Teatro Italia in via Morgagni, 500 dirigenti, tutti gli stati generali di CGIL e CISL, l'organizzazione sindacale dei pensionati, perché chiediamo che vi sia una modifica di quanto previsto dalla legge di stabilità per le pensioni, chiediamo che venga rivisto tutte le risorse destinate alle politiche sociali, in particolare per la sanità, ma anche per il fondo della non autosufficienza. Va bene ciò che è stato deciso per aumentare il fondo per la povertà, ma non è con la carità che si risolvono i problemi di maggiore uguaglianza e di lotta alla povertà in questo paese. Sull'intervento, quello sulle cosiddette pensioni d'oro, il contributo è del 6% per chi ha un trattamento di 14 volte superiore al minimo, che siamo intorno ai 90.000 euro lordi l'anno, poi sale al 12% per chi ce l'ha per la parte che eccede 20 volte il minimo, e il 18%, quindi bello pesante, però su chi ha 30 volte il minimo. Su questo meccanismo, cioè sui contributi di solidarietà che scattano al crescere dell'importo del trattamento, su cui già era intervenuta la Corte Costituzionale, invece che con un criterio che dice ricalcoliamo per tutti il rapporto previdenziale, quanto uno incassa rispetto al meccanismo di rivalutazione che c'è stato, quanta parte è agganciata all'ultimo stipendio e quanta col contributivo, che riguarda naturalmente tutti quelli che avranno il futuro che diceva lei del post Dini. Voi come la pensate? È giusto questo tipo di intervento o sarebbe più giusto e più equo l'altro? No, io penso che si possa chiedere un sacrificio a chi ha pensioni altissime, non le pensioni medio-alte, quelle medio-basse non parliamone proprio neppure, ma non è di questo che si tratta. Il problema è che chiedere un sacrificio a chi ha più pensioni, a chi ha accumulato più pensioni e che oggi prende 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 mila euro al mese di pensione. Al mese. Parlo al mese, sì. È un sacrificio dovuto, non è un sacrificio, è una richiesta dovuta. Si può trovare le modalità per evitare di incorrere nelle sanzioni della Corte Costituzionale. Lo dico perché quando hanno bloccato la rivalutazione per tutte le altre pensioni non c'è stata Corte Costituzionale che è intervenuta a dire che è anticostituzionale. Quindi facciamoci un esame di coscienza, proviamo a capire. Questo devo dire che sono totalmente d'accordo con lei. I valori costituzionali devono valere per tutti, non solo per le pensioni alte. E poi aggiungo un'altra cosa, che se bisogna chiedere un sacrificio alle grandi rendite, retributive. Perché chiedergliela solo ai pensionati? Perché solo ai pensionati d'oro e non agli stipendi d'oro? Bravo, cioè, quelli sono, mi scusi, d'oro comunque. Stavo, no? sono... stavo dicendo brava, non però non è il mio compito. No, non è il mio compito. Mi scusi. Invece, perché credo che ci sia un principio di equità. Ecco, questo lo diciamo. Non perché, per carità, lasciamo perdere le vendette, l'ideologia, non mi interessa, è una questione di equità. Mentre invece pensare di intervenire sul retributivo rispetto al contributivo, sì, anche qui bisogna fare un ragionamento di equità. Faccio un esempio, tutte le pensioni che sono state calcolate col retributivo, il 95% riguardano ex lavoratori e ex lavoratrici che hanno versato sull'unghia, mese dopo mese, sì, i contributi previdenziali, avendo lavorato 35, 37, 38, 40, 42 sì, anni. Ciò che è storto è quel 50% riferito a un cumulo che ha innalzato la base pensionistica, provocando poi un calcolo di retributivo che non è molto rispettoso di ciò che è stato versato. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:48:17. Approfittiamo della manifestazione nazionale dei sindacati domani a Roma per parlare con Carla Cantone, segretario dello CGIL, dei temi al centro della protesta di domani. E come immaginavo, molti sono i messaggi dei nostri ascoltatori che pongono proprio questa questione della differenza, per così dire, del sistema retributivo e di tutti coloro che naturalmente sono sotto il solo contributivo. Lei prima ha illustrato un sistema, lo vogliamo ripetere un secondo, come si potrebbe secondo lei intervenire? Sì, guarda, in questo paese ci sono state 6 riforme previdenziali e allora non è possibile che ogni tanto si tiri fuori la storia per la quale la riforma in cui si è trovato un determinato pensionato non va più bene, per cui quella pensione che ha avuto deve essere rivista. Io penso che sia una cosa che non va bene per nulla, non solo, ma attraverso questa guerra fra contributivo e retributivo, in pratica c'è il tentativo di mettere una generazione contro l'altra. Io la penso così, penso che chi è andato con retributivo, versandosi i contributi da lavoro ogni mese, a questi lavoratori non gli si può chiedere ora rivedere, di ricalcolare la sua pensione. È incostituzionale, è ingiusta, mentre invece bisognerebbe ripensare al contributivo, ma in un modo per i giovani, in un modo cercando di accompagnare i vari lavori precari che hanno i giovani, che attraverso la mobilità, la flessibilità hanno lunghi periodi senza lavorare. Bisognerebbe riconoscere contributi figurativi per questi lavoratori, in modo che quando andranno in pensione avranno una pensione dignitosa. Se si pensa di risolvere il tutto ridistribuendo fra padri e figli, io credo che sia un errore. No, questo lo capisco. Io ho un criterio che però... vogliono rivedere... Faccio una riflessione sui fondi Oscar, INPS. Se vogliono rivedere i mali delle retributive, devono andare a vedere quelli che la pensione gli è stata regalata. E posso dire una cosa? Ecco, proprio questo voglio dire. Posso dire una cosa? Siccome ci sono... Il 95% se la sono guadagnata. Siccome non è il fondo lavoratori dipendenti, però ci sono dei fondi all'interno dell'INPS che sono in deficit storico, da quelli dei dirigenti, elettrici, telefonici, eccetera. Io ho una riflessione su quei retributivi lì, che quindi già da molti anni hanno, tra virgolette, il regalo, e la fiscalità generale che equilibra, cioè lo Stato. Ecco lì una riflessione su quella, sui livelli alti, la farei, a dire la verità. Però capisco che è una materia molto, molto delicata. Abbiamo un po' di ascoltatori. Claudio da Torino, prego, Claudio. Oh, buonasera. Buonasera. Io stavo sentendo con molta attenzione, cosa dice la signora, però io sono in pensione da 11 anni, sì, e da 11 anni che non vedo una lira d'aumento. la mia pensione, per carità, io non mi lamento, perché però ho lavorato 40 anni, ho versato per 40 anni tutti i mesi fior fior di quattrini, ero dipendente naturalmente, ma fior fior di quattrini, non ho ricevuto ancora una lira d'aumento e adesso continuo a non ricevere praticamente briciole di aumento. E mi sto chiedendo cosa devo fare, perché alla fine sono in casa, mia figlia è disoccupata, cerco di aiutarla in qualche modo, eccetera eccetera, però non è giusto che io dopo 40 anni di versamenti continui a non ricevere neanche una lira, con tutti i soldi che si stanno rubando in regione, Piemonte, in politica, eccetera eccetera, come molte altre regioni. Quindi lei è uno colpito dalla mancata rivalutazione. Sentiamo Antonino da Milano. Buonasera Antonino. Io un po' ripeto quello che ha detto questo signore. Io sono in pensione, ho 70 anni, sono andato col contributivo perché alla fine mi è convenuto e quindi comunque... Cioè lei è andato col contributivo e non col retributivo in pensione? Sono andato col contributivo perché avendo fatto un'attività diciamo commerciale, certo, ma legato diciamo ai risultati, gli ultimi 10 anni che ero già più anziano e quindi diciamo lo stipendio non era più ai livelli di quando invece vendevo. No, è chiaro, perché gli è convenuto, certo. Per cui mi è convenuto fare la media di tutte le retribuzioni avute prima dei 10 anni. Naturalmente ci ho perso se avessi dovuto fare un conto corretto. L'altra cosa è che quindi non mi viene adeguato quello che è il rendimento di soldi che sono miei, e la mia pensione è fatta sui miei soldi, non certo sul mio guadagno. E l'altra cosa è che mi sembra un po' forte da parte dello Stato chiedere di non adeguare a chi magari come me e come tanti hanno dei figli che non trovando lavoro... Chiarissimo, a questo punto lei dice che lo Stato dovrebbe tenerne conto. Giriamo immediatamente la domanda a Carla Cantone. Allora, sul primo intervento sono assolutamente d'accordo, il motivo per il quale noi ci battiamo, perché vogliamo che la rivalutazione ritorni, l'indicizzazione è piena per tutti, quando io dicevo che bisogna salvare il sistema. E su chi hai disoccupati a carico? L'altra questione che riguarda la disoccupazione, se noi non affrontiamo il tema del lavoro, se uno non lavora, non versa i contributi, e se non versa i contributi, il rischio di far saltare il sistema previdenziale per vecchi e giovani c'è. Questo è il punto principale. Va bene, Carla Cantone, io la ringrazio. Oggi siamo brevissimi ancora più del solito. Continuate su Radio 24, buona manifestazione ai pensionati, a domani.